se volete la verità. Andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Oh, giovani, quando vi dico seguitemi i miei pugnaci, dovete seguire e pugnare. Poche foot. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across the USA. Plugged her eyebrows on the way. Shaved her legs and handy with a she. She says, hey babe. L'assessore era effettivamente mortificato per quello che ha detto. Ha rassegnato le dimissioni, che io ho respinto con riserva. Quindi nega che ha detto quelle cose, si è scusato. Scusi, lo ripeto, forse non sono stata chiara. Si è scusato davvero con, non so, la cenere in capo, i ceci sotto le ginocchia. Ecco, io questo ho fatto, si è scusato. Hey babe, take a walk on the wild side. Said hey babe, take a walk on the wild side. And the cold girls go to do do to do to do do to do do to do to do to do to do to do to do to do to do to do to do to do to do to do. Posso smentire che io abbia mai conosciuto né conosca questo ragazzo che si era avvicinato a un gruppo di amici che, quando succede a tutti noi, parlano delle loro cose. Quindi questo mascalzone ha registrato un colloquio che ovviamente è privato. Non ho capito niente. De Luca, te lo spiego io, De Luca, è un casino. È un casino, quello che ieri ho letto in rassegna stampa. Vi ricordate che quando ho letto la stampa ho detto: ma qua, cioè, se è vero quello che viene attribuito all'assessore Berdini a Roma, è un ex assessore, perché o smentisce o è un ex assessore. È tutto vero, signori, c'è una registrazione. Berdini evidentemente si è visto avvicinare da quello che lui chiama un mascalzone, è un giornalista della stampa che ha registrato, questo va detto, di soppiatto, una conversazione di Berdini, e Berdini ha detto delle cose terribili sulla Raggi, fianco una banda di assassini, pare che abbia detto. C'è l'audio anche, poi la stampa l'ha dovuto produrre, non si capisce tanto bene, ma ha detto le cose terribili che poi la stampa ha scritto. E come ha detto la Raggi, si è scusato con i ceci sotto le ginocchia. Ora io ho un suggerimento al professor Paolo Berdini, che è uno stimatissimo urbanista che noi abbiamo avuto ospite tantissime volte ben prima che diventasse assessore. È uno che ha scritto grandi libri sulle città violentate dall'abusivismo edilizio, stuprate dagli schifi totali di tutti gli italiani che se ne fottono delle regole e fanno delle città quello che vogliono, costruendo dove non si può, violando le regole, infrangendo i piani regolatori. È un urbanista coi controfiocchi, insomma, molto stimato, e si è buttato in questa avventura politica, e si sa che la politica poi stritola tutti. Ecco, il consiglio è questo: assessore, dimettiti tu assolutamente, perché ti hanno congelato lì, voleva andarsene. No, no, caro mio, adesso stai qui finché ci servi, perché abbiamo delle cose da ultimare. Stai lì, che non abbiamo neanche il sostituto, stai lì. Poi quando ti diremo, ok, grazie, basta, quella è la porta, ti faremo... E intanto ci sarà una graticola, ci sarà uno stillicidio, ti tratteranno male. È entrato addirittura alla riunione di giunta, l'hanno accolto così. Eccoci qui, siamo la banda di disgraziati di cui hai parlato. Dimettiti, Berdini, dimettiti subito, subito, stamattina alle 8, appena arrivi lì, grazie, arrivederci. Voi respingete le dimissioni, non mi interessa, grazie, arrivederci, me ne vado. Subito. ma voi state bene con la testa o no? non lo so. Sono le 6:34 minuti, devo salutare subito il direttore di oggi, Umberto Brindani. Direttore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Che bel casino, ragazzi. I ceci sotto il ginocchio, però di fantoziana memoria, sono fantastici. La corazzata Potemkin. Esatto, gli abbiamo fatto anche vedere la corazzata Potemkin, non ci siamo capiti. Virginia Raggi. Allora, giustamente mi dicono, oltre che un urbanista coi controfiocchi o i controcoglioni, un urbanista che ha i controceci. Ora, un urbanista coi controceci, ci scrive Tonio. Insieme a Umberto Brindani voglio salutare Silvia Brasca. Ciao. Del TG della 7. Due interisti oggi, sapevate di condividere questa patologia voi due? No, io sì. Ah, Silvia Brasca lo sapeva, Umberto Brindani no. Va bene, vi abbiamo recuperato 3 punti. Allora andiamo a aprire il Parlamento. Ieri grande, no, ragazzi, se uno esce per prendere un grandissima caffè, prestazione di forza, mette dentro la palla, nove uomini, trova il gol, ecco, del vantaggio, 9 eroi rossoneri, 9, 2 espulsioni, siamo andati a vincere a Bologna al 90esimo, signori. Bravi. Hai qualcos'altro da aggiungere? Nervosetti anche voi, ma... Nervosetti, per l'espulsione, va bene. Allora, signori, non so, vogliamo iniziare da questa... Ma è una commedia bellissima. Adesso poi ci diranno che siamo contro il 5 Stelle. Non mi interessa, ma interessa così ricamare su quello che sta succedendo. Allora, intanto, Brindani, ma è normale rubare un colloquio così privato? Cioè, se lo fa un tuo giornalista, dici, va bene, comunque hai fatto uno scoop? Cioè, perché c'è anche questo tipo di problema, no? Ma sai, prima di tutto è del tutto legale. Sì. Cioè, questo bisogna dirlo, perché si può anche registrare... cioè, la legge dice che se tu hai un colloquio con un'altra persona, tu puoi registrare questo colloquio. Quello che non puoi fare è registrare, ovviamente, i colloqui di altri, no? Cioè, ma non bisognerebbe dire, cioè, nelle vecchie regole giornalistiche bisognerebbe qualificarsi come giornalisti? Ma lui si è qualificato, perché alla fine dell'audio si sente Berdini che gli chiede, ma tu sei precario? E lui, il poveraccio, risponde sì. Quindi questo... Ah, cioè proprio sapeva di parlare con giornalista. Allora... Lo sapeva, sì. Allora, Berdini, glielo chiede. Stimatissimo urbanista, io ho detto, ma insomma, forse un po' poco furbo. Stimatissimo urbanista, ma insomma... Comunque, guarda, io mi sono messo nei panni, del giornalista e ovviamente anche in questo caso del direttore bravissimo Molinari, e mi sono detto, ma se il mio giornalista arrivasse con una bomba atomica di questo tipo, che io gli chiederei, ma scusa, ma l'hai registrato? Sei sicuro? Sai, comunque ti assumi la responsabilità di quello che scrivi. No, in questo caso questo collega aveva registrato il colloquio, e se non ci fosse stata la registrazione saremmo ancora qui a parlare del fatto che Di Maio dice che i giornalisti inventano, no? Perché ha fatto la lista di proscrizione, quindi per fortuna che c'era l'audio, quindi hanno dovuto, come dire, arrendersi all'evidenza dei fatti. In questo caso sì. Infatti c'è da dire che per mezza giornata sono stati un po' di fronte all'audio non hanno potuto che dire questa cosa. Esatto. Tu, Silvia, te la immagini la scena con i ceci sotto le ginocchia? No, io mi immagino la giornata che è stata ieri, dall'appunto da lettura, anzi la notte prima, perché c'era il richiamino in prima. Io non dico di non aver dormito aspettando, però no, è stata una giornata, non riesco a capire davvero come fanno a lavorare da settimane in quella città, in quel comune. Adesso noi tutti qua a Milano, no? Per caso mi sembra siamo... tra milanesi, ma io davvero mi domando, con le cose che ci sono a Roma, come riescano ad avere la serenità per andare avanti. In tutto questo hanno approvato il bilancio, cioè una delle città che Roma, tra l'altro, che ha approvato il bilancio prima degli altri anni e prima delle altre città, cioè capisci che anche a me stupisce, nel senso, con tutte queste polemiche quotidiane, cioè immagino che ieri la giunta non abbia fatto nient'altro che occuparsi di questo caso Berdini, perché voglio dire, insomma, noi lo sappiamo, in un ambiente di lavoro quando ci sono anche scandaletti, che altro che questo, insomma, è difficile essere concentrati, no? Perché il pensiero va lì. Ma mi ricordo, qua è molto diverso da quell'altra che fece scandalo di conversazioni che dissero rubata, quella al bar riguardo a Fini, se vi ricordate, quelli che dicevano. E come sempre c'è una questione, diciamo, sentimentale di mezzo, anche quella volta, ti ricordi, che parlavano. Ah già, perché Verdini ha detto pure questo, che erano amanti. Secondo me è questa la cosa che più ha infastidito il sindaco, giustamente forse, giustamente. Giustamente, diciamo. Ma no, che vuoi, cioè, adesso parlare di... cioè, mettere i fatti miei in piazza, se sono veri, non sono veri, ma insomma... Questo è un caso in cui l'assessore Verdini è riuscito a farci diventare simpatica anche la Raggi. Poraccia, caso veramente è stata travolta da una cosa, per una volta lei non c'entra assolutamente niente. È bellissimo quando gli hanno detto: ma scusi, ma sei scusato? Non ci siamo capiti. Ceci sotto le ginocchia. Vabbè, ma poi si è inventata questa cosa meravigliosa. Ho accettato le dimissioni con riserva. Con riserva, anch'io non ho capito cosa vuol dire. Ma sì, vuol dire quello. Allora, tutti i giornali lo raccontano, lo voleva cacciare sui due piedi. Ha chiamato Beppe Grillo, gli hanno detto: non è che c'è un assessore, via un assessore, ne abbiamo uno a disposizione. Subito dopo c'è lo stadio, ci sono questioni. È l'assessore all'urbanistica, è un assessorato fondamentale per Roma. Vi ricordate l'economia cosa hanno fatto? Che hanno mandato via uno, poi ne hanno messo un altro, è durato due giorni, no, non si può, e hanno fatto un balletto, per cui in attesa di trovarne un altro stai lì, Verdini, stai speriamo, lì. E speriamo che abbia parlato col Grillo autentico. No, dai! C'è dai. Anche l'altro caso, quello del caso Sgarbi, che è meraviglioso. Sì, vabbè, sì, il caso Sgarbi, dai. Vabbè, no. Allora, la verità è che Verdini, secondo me, dovrebbe proprio lasciare, perché sennò viene, come dire, spolpato, spellato vivo giorno per giorno in attesa di andare via. Non so, però... questa è la mia idea. Tu sì, io sono d'accordo. Beh, io perché secondo, sì, anche secondo me deve assolutamente andare via. Lo farà, speriamo, lo farà. Per lui. No, però secondo me si stava divertendo, e allora è difficile lasciare una posizione nella quale, appunto, nonostante tutte le responsabilità, adesso era anche invisibilità con la storia dello stadio della Roma, e quindi insomma sarà difficile, però. Va bene, signori, devo parlare di questa cosa. Di che cosa? Devo parlare, Silvia. Secondo me tu, da donna, ti dico un suggerimento. No, da donna. Eccola lì, vedi che l'hai capito. È bastato dire da donna, giuro, non c'era nessun accordo e lei ha capito. No, il vestito della Diletta Leotta. No, a Sanremo non si parla. Cioè... voi se continuo a leggere i giornali. Scusate, ho da fare. Signori, questo è un caso nazionale. Allora, da due giorni le donne, preciso le donne, sottolineo le donne, non parlano d'altro, caro direttore Brindani, perché non c'è peggior cosa delle donne quando diventano cattive nei confronti di altre donne. Questa è la verità. Questo lo dici tu. No, dai, è vero. Il tema è il vestito di Diletta Leotta, giornalista di Sky, sicuramente avvenente, alla quale rubarono le foto molto intime per diffonderle. Il tema è, caro direttore, inizia tu, che sei uomo, che sei uomo. Allora, cioè, la critica di Diletta Leotta è: non si può presentare così. Era abbastanza svestita a parlare di cyberbullismo, e poi si lamenta delle foto rubate, e poi si mostra con la coscia nuda. E allora poi lascio la parola a Silvia, in quanto donna. No! In quanto donna, vorrei invocare il quinto emendamento, ma dirò soltanto che sono totalmente d'accordo con Caterina Balivo. Lascio voi decidere se nella prima versione o nella seconda. Ah, cioè, quando ha Caterina Balivo, prima ha detto come si presenta così e parla di cyberbullismo, e poi si è scusata. E allarga con le mani lo spacco della gonna. Allora, dai, sentiamo, le, sentite, momento, momento di interesse nazionale, attenzione, fermatevi tutti, state andando al lavoro, fermatevi tutti, le scuse di Caterina Balivo, momento importante. Diletta Leotta, tesoro. Diletta Leotta, è qui. Un attimo, ti devo rubare la parola. Perché ieri sera, non prima di andare a dormire, che ho postato foto un tweet infelice, lo direi. Ha scatenato tantissime lo polemiche. Direi. Allora, ho espresso un giudizio sull'atteggiamento. Sì. Me ne dispiace. Non sono nessuno per giudicare un atteggiamento di un'altra donna. Non so. Vabbè, intanto è apparsa, noto che è apparsa una foto... Diletta Leotta, una a caso il giorno dopo, no? In cui... Vabbè, e ha chiesto scusa Caterina Balivo, un momento. Donna? Pronto? Donna, sì. Sì, sono qua. Smettila sono di qua, leggere sì. I giornali, devi parlare del vestito di Diletta Leotta e se Diletta Leotta in quanto donna possa vestirsi così e parlare di... non violate la privacy, non rubate le foto, non fate il cyberbullismo. Ma certo che può vestirsi come vuole e... e basta. Una vita professionale di Silvia Brasca gettata. Ma vedi, non è vero, sono queste cose che invece interessano, paginate oggi sui giornali, certo, quindi certo. E quindi e se ti devo dire, ma cioè, può vestirsi come vuole, il problema è Sanremo, non è quello, non sono le donne da lì, il problema è portare quei temi lì su quelle robe, far finta, tutta l'ipocrisia di Sanremo, dai, e poi di un vestito che forse non era bellissimo, ecco, diciamo quello, ma è una roba da donna, non era bellissimo in che senso, nel senso che era troppo desnudo o non ti piaceva? Ma no, non mi piaceva, era pesante, era un po', non lo so, ma l'ho vista vestita meglio, ma fine della storia, se vuoi un giudizio su quello che è successo, quella roba lì era che il vestito poteva essere ugualmente scollato, ugualmente con lo spacco, sì. Ma ecco, fine. Però vabbè, può vestirsi così e parlare di quei temi, no? Sì, ma certo, ma comunque il problema contesto il fatto che le donne siano più cattive degli uomini quando parlano tra di loro. Contesta, direttore. No, tu che dici? È un'altra cosa di genere. Ecco, che le donne tra di loro sono delle iene, siamo tutti uguali. Basta. Posso fare una citazione colta da Marshall McLuhan, sì, da Woody Allen? Diciamo che il mezzo faceva pugni con il messaggio, possiamo dirlo, sì. Questo? Ah, tu dici sì, Sanremo? Sì, il mezzo Sanremo o il mezzo in questo caso? Il mezzo vestito. Diciamo il vestito... Allora è Balivo 1, Umberto. Sì, il direttore è un po' più Balivo 1, Balivo 1. Vabbè, sentiamo Feltri su Sanremo. No, tu la pensi come Feltri, cara Silvia Brasca, questa è la verità. Sentilo qua. Io francamente lo detesto Sanremo perché è la summa delle cose peggiori. Lo detesto. Vabbè, sei anche d'accordo con Sabrina Ferilli, senti qua. Non c'è, no, la Ferilli. La recuperiamo dopo il traffico, allora. Andiamo al traffico. Silvio Milan, manda al traffico. In Italia, in Europa e nel mondo, debusciato. Milan, stiamo raccogliendo le firme. Ti vogliamo a Roma! Ti vogliamo a Roma con Manera! Ma la domanda, Alino Milan è nella lista dei 5 Stelle? In Italia c'è gente che in 26 anni può dire mai lavorato un giorno. Alino, sto andando a lavorare, faccio il chirurgo della mano, vado a operare delle mani. Cerca di darmi buone notizie, così lavoro meglio. Ciao! La Cospia parla di orchite. Dice esplicitamente che per trovare un etero a Sanremo l'anno prossimo lo fanno condurre a Malgioglio, cioè... Vabbè, Adinolfi invece c'ha l'ossessione degli omosessuali in troppi omosessuali a Sanremo. No, non sono sulla lista 5 Stelle, non mi risulta tra i giornalisti sgraditi. Non so, Brindani? No. Qualcuno di oggi, qualcuno del tuo... No. Un po' me ne dispiace, ma un non, po', non sì. c'è nessuno di noi. Però potremmo lavorare, se vuoi dire qualcosa di veramente duro, poi noi lo twittiamo, cerchiamo di farti inserire in lista, come nelle grandi feste, quelle dove proprio... dove... Nella prossima lista di Di Maio che sicuramente sta preparando. Esatto. Sì, tu sì, Silvia sì. Brasca sei nel... No, ma io c'ho Mentana che fa da bastione per tutti, che tira le prende, le dà su Facebook, quindi... Tra l'altro guarda qua, leggo sul giornale, Di Maio che denuncia i cronisti all'ordine, ma è giornalista da 2 anni, non paga le quote, non versa le quote, questa non è male, non è male, questa non, è male. Non versa le quote. Vabbè, però è scritto nell'elenco pubblicisti, non credo che si debba, cioè ci sono le quote anche per l'elenco pubblicisti, sì, penso. Ma secondo me sì. Vabbè, da due anni è moroso. Va bene, allora non so, dobbiamo sentire anche la Ferilli che oggi a Sanremo, così lo chiudiamo, la chiudiamo sì. questa cosa di Sanremo. Cosa pensa della Raggi, di quello che a me piace tantissimo, non sta succedendo niente, a me piace moltissimo la Raggi. Senta, andrà a votare alle primarie del PD. Ho risposto sulla Raggi. Ah, questa è sulla Raggi, Raggi, non su Sanremo. Sulla Raggi, vedi una che gli piace la Raggi. A proposito di PD, io lo chiedo a tutti. Oggi c'è un'intervista, la dovrò leggere in rassegna stampa, una pagina a D'Alema. Su Repubblica, la frase migliore è questa: io non sono un rancoroso. E lo ha detto, io me lo sento con questo tono. Io non sono rancoroso. Diciamo. Nei confronti di Renzi, ovviamente parlava. Brindani, bisogna andare a votare o no? D'Alema dice che se si va a votare lo spread va a 400. Ale, basta dare il... Ma guarda, a me sembra che in questo momento ci sia veramente il tiro al piccione nei confronti di Renzi, che è una cosa incredibile, insomma. Io non lo so se si debba andare a votare, spero che comincino a occuparsi delle cose serie. Questi stanno da mesi parlando soltanto di questioni costituzionali, regole, legge elettorale e nient'altro. E andiamo avanti così. Noi l'avevamo detto, Sì. Io avevo detto che se avesse vinto il no, ci saremmo ritrovati ancora per mesi e forse anni a continuare a parlare di questioni, come si può dire, che stanno alla base delle questioni vere, cioè i problemi della gente, i problemi dell'economia, eccetera, eccetera. No, ci troviamo sempre a parlare di questo. Sono d'accordo. Io personalmente non ne posso più, capito? Ma sono d'accordo con te, ma infatti era questo il rischio. E pensa se si andasse a una campagna elettorale adesso, ma non che se si andrà a votare tra un anno. Comunque, Alessandro, sarà una... Se si voterà nel 2018... sarà una campagna elettorale che durerà da qui al 2018, può più. Certo. No, è vero, su questo non se ne può più. Voi vedete, guardate i giornali e guardate se un politico parla dei problemi concreti e reali delle cose. Non so, tu Silvia, che ti occupi, insomma, segui anche un po' la politica, sì, oltre alla cronaca, di cosa parlano? Cioè, davvero vedi, non è populismo, ma davvero vedi un legame tra... Ieri guardavo il TG1, a un certo punto appare il ministro Martina. Oh, una bella intervista al ministro Martina, dai, la vedo. Non sembrava concordare con risposte di 7 secondi. Dico, è ministro delle politiche agricole, mi dirà qualcosa sull'agricoltura. Tutto sulla rappresentatività del Partito Democratico, tutto sul Partito Democratico. Ma che minchia me ne frega? Ma sei il ministro delle politiche agricole, dammi un annuncio per le migliaia di agricoltori che ti staranno ascoltando. No, così. Silvia, scusa. È così, no, a che settimana siamo decisiva, siamo sì, arrivati vabbè. Con la legge elettorale? Questa è l'ottava, perché siamo ripartiti. Ecco, zero. Quanti mesi qua, in quanto si doveva fare per D'Alema la legge elettorale, che aveva detto che se vinceva no, comunque, non mi ricordo più in quanto tempo la legge elettorale. Non è neanche la cosa più decisiva secondo gli italiani, la legge elettorale, è importante per votare, ma gli italiani guardano anche ad altre cose. Beh, almeno con la legge elettorale, con una nuova legge si può andare, almeno la facciamo finita, una cosa la faranno. Sì, ma le cose proprio poi sul lavoro, su, non so, per dire, quando annunciano alcune cose concrete, vi ricordate il bonus cultura? Oggi la stampa racconta che il 6,3% dei fondi stanziati sono stati utilizzati dai giovani. il 6,3%. Cioè, per dire... E guardate che questa è tutta acqua al mulino del Movimento 5 Stelle, perché nonostante il caos inenarrabile che c'è a Roma, nonostante le gaffe di Maion e di Battista e di quant'altro, i grillini continuano a stare stabili sul 30% e continueranno a crescere, proprio perché l'altra politica non si occupa dei problemi della gente. Sembra di, hai ragione, sembra populismo, demagogia. Ma no, ma è la verità, cioè, ma tante, tante volte. Ma guardate, sì. Guardate Trump, è arrivato, sta facendo il diavolo a quattro, facendo decreti poi non condivisibili per la maggior parte, ma sta cambiando, cercando di cambiare le cose. No, ma guarda, si parla della legge elettorale. Io sono anche stanco di sentir dare del populista a qualcuno che dice delle cose che invece sono sotto gli occhi di tutti. Io lo dico sempre: non siete voi sbagliati, sono loro. Sono loro. Allora, siccome vi voglio bene, essendo voi due interisti, vi voglio dare l'opportunità di insignire di qualcuno il premio Giachetti. Ah. Hai la faccia come il culo. Avete la faccia come il culo. Oh, perché sono quelle cose che non mettono mai in difficoltà i miei ospiti. Il premio, no, Giachetti. Ce l'ho, Ah, Brindani, ottimo. Mettilo su oggi, il premio Giachetti. Te lo regalo così. Certo, non hai l'audio su oggi, però. Dai, posso segnarlo? Come no? Certo. Lo assegno a Beppe Marotta. Della Juve? Della Juve, perché per la frase che ha detto, che trovo oggi sui giornali. In Italia manca la cultura della sconfitta. Non gli brucia la sconfitta, Brindani. Non gli brucia la sconfitta. Silvia Brasca, te, comunque, lo Juventino. L'hai appena detto. Io non sono un rancoroso, è quella fresca, esatto, di giornata della mattina. Ah, D'Alema, quindi non sono rancoroso. D'Alema. Va bene, io vi segnalo invece. Oggi lo trovate in edicola. E qua, Brindani, sempre oggi lo trovate. Dobbiamo risolvere questa cosa. Oggi lo trovate, oggi, in edicola. Va bene, comunque c'ha 20 anni dalla tragedia. Faccio rivivere Lady Diana, Serena Autiere in copertina. Dai, ringrazio sia te, Umberto Brindani, che Silvia Brasca, e ci sentiamo alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da Iperceramica. Prezzi super, qualità iper. Miau. Aline Mila, Eli e gestisci un lanciano di Yamia 24 mattino. Quando sono le 7:19 minuti, signori, eccoci a leggere le notizie. La rassegna stampa di 24 mattino, ci siamo, caro Peter Bescapè. Siamo pronti, andiamo. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Siamo a giovedì 9 febbraio con alcuni titoli, ne cito pochi perché voglio subito gettarmi nella lettura delle notizie, davvero tante interessanti oggi. Il Sole 24 Ore apre sull'effetto spread capitali verso i paesi emergenti, mentre il Corriere della Sera, Roma, nuovo colpo alla giunta. Repubblica invece ha un'apertura sul lavoro, la strage nascosta. 100 morti dimenticati, inchiesta sugli incidenti non denunciati e nei cantieri in nero. La questione di Roma è anche centrale per la stampa. Virginia furiosa via l'assessore, per il Messaggero accusa Raggi, crisi in giunta. Come vedete, il tema è questo, ma voglio appunto buttarmi subito a leggere alcune notizie, a cominciare dalla Rai puntata seconda. Oggi la stampa continua la pubblicazione di un documento interno RAI su ieri le spese per i conduttori. Oggi avremo ospite Massimo Giletti, parleremo di questo, e per quel che riguarda i conduttori RAI e i contratti loro. Oggi invece la stampa si concentra sulle fiction. Nel business delle fiction RAI un tesoro conteso da 200 milioni. Paolo Baroni e Paolo Festuccia raccontano: ogni anno la RAI investe circa 200-220 milioni di euro nella produzione di fiction e TV movie. Tesoro conteso da tutti i più importanti produttori, dai giganti mondiali dei format, Endemol, Fremantle, Banjai Entertainment. E quali sono le fiction che prendono più soldi?